Quanto freddo all'improvviso, mentre il fuoco è ancora vivo, come se sapesse che si spegnerà. Ombre in cielo e nella polvere, nel respiro della